Letture di Radio 24. La rapidità con cui si è diffusa in rete la traduzione della prova di latino durante gli ultimi esami di maturità dovrebbe offrire spunti di riflessione sul digital divide tra scuola e alunni. Come ogni anno, da almeno una decina, fa notizia la rapidità con cui, a pochi minuti dall'inizio della seconda prova di maturità classica, compaiono su vari siti testo e traduzione. Le scuole sono in realtà ben attrezzate. Durante gli esami, oltre al ritiro dei portatili dei candidati, viene tolta la connessione dal server dell'istituto ed è praticamente impossibile accedere alla rete. A dispetto delle favole sull'e-cheating, penne full internet, palmari microscopici, eccetera, il calepino nella cintura o il passaggio della gomma al compagno restano ancora i metodi più diffusi per copiare. La non notizia della diffusione via web del brano di Seneca di giovedì scorso offre tuttavia lo spunto per una riflessione su rete e didattica, in particolare in merito all'apprendimento delle lingue classiche. La prassi tradizionale dell'esercizio casalingo, la versione di latino o di greco per intenderci, è pressoché vanificata dalla presenza in rete di tutti o quasi i testi con traduzione, cui Google permette di accedere in pochi secondi, digitando due o tre parole. L'insegnante può reagire in tre modi. 1. Non se ne accorge e pensa di avere una classe schizofrenica che traduce benissimo a casa e malissimo a scuola, fino a quando gli studenti non imparano a usare internet sul portatile in classe. A quel punto penserà di avere la classe migliore che gli sia mai capitata. 2. Se ne accorge, percepisce la rete come il nemico e adotta un atteggiamento punitivo. Darò 2 a chi copia da internet. 3. Se ne accorge, si incuriosisce e scopre che i testi online consentono manipolazioni, ricerche lessicali, confronti intertestuali che nessun cartaceo permetterebbe. Smette di dare versioni a casa e comincia a costruire percorsi di apprendimento a partire dai migliori siti della rete, imparando e insegnando a distinguerli dalla spazzatura. Al diffondersi del terzo modello, l'unico virtuoso, ostano tre fattori: la refrattarietà al nuovo, non poco diffusa tra i docenti, il digital divide fra questi e gli alunni, particolarmente sensibile in Italia, dove l'età media degli insegnanti supera i 50, un'editoria scolastica modesta e poco coraggiosa. Ma la strada obbligata è questa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Ferratini, Maturità, traduzione subito in rete, la scuola, impari la lezione del web, dal Corriere della Sera del 24 giugno. Letture di Radio 24. Dopo la parabola ascendente degli ultimi anni, arriva il declino anche per Facebook, un paradiso virtuale che inizia a riproporre gli stessi comportamenti sgradevoli della vita reale. Tramontano gli imperi, le dinastie industriali, le belle giornate di primavera. E adesso, negli Stati Uniti, anche Facebook. A mutuare Guzzanti, c'è grossa crisi per quelle realtà idilliache che hanno portato un raggio di sole, pur virtuale, persino ai più soli e afflitti che si erano illusi di un tardivo reinserimento sociale e magari di una più fortunata reincarnazione con migliaia di amici fighissimi, dietro la cui maschera si celavano altrettanti consimili e frotte di fanciulle da far girar la testa, dall'altra parte, se incontrate dal vivo. Il calo della febbre del social network trova ragionevoli spiegazioni. In primo luogo, ogni fenomeno, specie di così repentino sviluppo, ha una traiettoria balisticamente prevedibile. L'esaurirsi della novità, irresistibile anche per i più refrattari con mouse e tastiera, e il passar di moda sono la conclusione di una parabola naturale. Una sostanziale piacevolezza dell'iniziativa ha evitato la caduta a picco con cui si è inabissata l'effimera Second Life, ma una flessione non può suonare inaspettata. Tra i fattori che hanno influito c'è la permeazione di Facebook da parte di tutti i quotidiani comportamenti sgradevoli, immediatamente travasatisi nel contesto telematico. Quello che si era inizialmente prospettato come un novello paradiso terrestre, poco alla volta ha visto sbarcare soggetti dalla condotta inaccettabile e l'atmosfera incantevole ha cominciato a opacizzarsi. Sulla testa degli sprovveduti sono quindi piovute truffe e frodi di ogni genere e si è innescato un processo di inevitabile disaffezione. I presunti amici non si sono rivelati tali e inizia a serpeggiare un'imprevista diffidenza. Subito dopo hanno trovato terreno fertile ingiurie, calunnie, diffamazione. Le bacheche personali, moderni tazebao del paese delle meraviglie, non hanno tardato a ospitare volgarità e altre espressioni lontane dal savoir vivre. Poi si è passati alle minacce e, di lì il passo è breve, ha fatto capolino lo stalking. Nel frattempo, molti hanno capito perché negli anni avevano giustamente perso i contatti con certi vecchi amici e conoscenti. Altri hanno riscoperto il piacere degli incontri al bar o di quattro chiacchiere su una panchina al parco. Ad altri ancora è apparso in sogno il comico di qualche riga fa che con il suo aborigeno spiegava l'inutilità di contattare sconosciuti. E così, lontano dal mondo scientifico, è scattata una nuova fuga di cervelli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Umberto Rapetto, Volta faccia Facebook, dal Magazine 7 del 23 giugno. Durante il suo trionfale concerto a San Siro, Vasco Rossi si lancia in un comizio in difesa di ogni libertà, inclusa quella di guidare ubriachi. Da decenni ormai, grazie a Vasco Rossi, quando succede di esagerare una sera, mischiare vini, mangiare troppe cozze, fare tardi, avere acidità di stomaco, le borse sotto gli occhi, i vestiti che puzzano di fumo e la faccia pesta, non mi sento uno schifo, ma una Maudì di provincia. Un po' Baudelaire, un po' biliardino in birreria. Vasco ha reso poetici gli eccessi da Roxy Bar, compresa la nausea del giorno dopo. Ha regalato alibi filosofici a certi sabati sera non proprio eroici. Canzoni bellissime, tranne l'ultima forse, che ricorda una parodia di Checco Zalone. Concerti elettrizzanti e lui bello, invecchiato e dannato, ma di una dannazione sostenibile, compatibile con le lasagne fatte in casa. Allora perché rovinare tutto con i discorsi da palco? A San Siro, davanti a decine di migliaia di ragazzi, e di non più ragazzi ma appassionati, il 16 giugno Vasco ha voluto fare un comizio sulla libertà. Libertà di ubriacarsi, certo, libertà di eccedere, ma soprattutto libertà di guidare la notte ubriachi. Ha detto che le leggi sulle intenzioni, quelle che ti puniscono se ti trovano fradicio al volante, sono una vergogna, una cosa fatta dallo Stato per fotterci. «La libertà va difesa, la libertà ve la fottono, diceva Vasco dal palco. La libertà va difesa, certo, ma la responsabilità sentimentale di una rockstar di mezza età, pluripadre, verso ragazzi che lo ascoltano, adoranti e fiduciosi, ognuno entusiasta di gettarsi nella propria vita spericolata, implora Vasco per un pensiero un po' più profondo e limita la libertà di farneticazioni da stadio pieno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Annalena Benini, Canta Vasco, ma risparmiaci i comizi, da Panorama del 29 giugno.